spesso provo a immaginare quello che potrà arrivare, quello che il futuro mi riserverà. E mi chiedo se sarà vita dura o più leggera, e alla fine della fiera cosa resterà. Poi guardo avanti e penso che tra sorrisi e lacrime, fra tristezza ed allegria, un po' prosa e un po' poesia, posso solo continuare a provare e riprovare. Fino alla fine, fino a quando questo cuore batterà per te. Fino alla fine, fino a quando quel tuo cuore batterà per me. Spesso cerco di capire come potrà continuare questo viaggio che mi lascia senza fiato, e se c'è poi una meta, una stella cometa da seguire per trovare l'uomo che c'è in me. Poi guardo avanti e penso che fra sorrisi e lacrime, fra tristezza ed allegria, un po' prosa e un po' poesia, posso solo continuare a provare e riprovare. Fino alla fine, fino a quando questo cuore batterà per te. Fino alla fine, fino a quando quel tuo cuore batterà per me. Con il cuore e la ragione, con fatica e con amore, con le mani e con i piedi, oltre quello che non vedi, con i sogni e la realtà, con il corpo e l'anima. Fino alla fine, fino a quando questo cuore batterà per te. Quando quel tuo cuore batterà per me. Questo cuore batte.